Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari amici, ho letto per me e per voi le 46 pagine della relazione della Questura di Reggio Calabria sull'omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, assassinato a Locri il 16 ottobre 2005. La Questura ha poi spedito la relazione alla Procura di Reggio, che a sua volta l'ha spedita alla Commissione parlamentare antimafia, che aveva chiesto di approfondire la questione dopo che una prima informativa della Questura di Reggio, datata 1 dicembre 2005, sembrava aprire scenari nuovi su quell'omicidio. Quest'ultima relazione, invece, sgombrerebbe il campo da ogni dubbio. Nella telefonata intercorsa e intercettata a Prato il 13 ottobre 2005 tra il vecchio Don Micolibri, Antonino Sinicropi e Salvatore Tuscano, non si faceva riferimento al clamoroso omicidio di Francesco Fortugno, che avverrà tre giorni dopo, ma a Demetrio Berna, che all'epoca dei fatti era consigliere comunale di maggioranza con Giuseppe Scopelliti, sindaco, e che attualmente ricopre la carica di assessore al bilancio nel comune ora guidato da Demetrio Arena. I dubbi che questa seconda relazione pone, se analizzata allo specchio con la prima, sono talmente tanti che per questo vi rimando al mio blog Guardie o Ladri, nel quale ho approfondito la questione. Basti qui una sottolineatura. L'unico testimone che avrebbe potuto fare piena luce sul significato di quella telefonata intercettata, vale a dire Antonino Sinicropi, attualmente detenuto a Prato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli altri due interlocutori, Don Micolibri e Salvatore Tuscano, sono morti. Tutto legittimo e reale, ma bisogna legittimamente porsi interrogativi su quel silenzio. Ha senso o dissenso? Su un omicidio eccellente che ha cambiato il corso della politica calabrese. Buona vita e a domani.